Questi sono i Mille Passi, uno sceneggiato liberamente ispirato alla vita reale, dalle pagine dei diari ritrovati in una valigia a fiori. Raccontano le avventure di Morgana, italiana di origine e cittadina del mondo per scelta. Scritto, diretto e interpretato da me, Alice Bettolo, con audio e musiche originali registrate sempre con mezzi di fortuna. Capitolo 1. Fotografie. 12 agosto 2018. Giardino incantato. Il ricordo più antico che ho è di una domenica mattina. Faceva caldo, un caldo afoso che non conoscevo. Dalle finestre entrava un mezzo sole che illuminava un tavolo di legno, pieno di farina e di orecchiette, che una nonna stava velocemente creando con la punta delle sue dita. Ma mentre lei parlava e la stanza si riempiva di farina a fiotti illuminati a righe orizzontali dai raggi del sole, io mi distraevo con l'immagine della tartaruga di terra che avevo visto salendo le scale proprio nel giardino sotto la finestra. Eravamo in vacanza dai parenti del sud Italia, proprio quelli che durante le cene borghesi venivano descritti come i terroni, quelli che non hanno mai voglia di lavorare, dei quali non fidarsi perché in fondo godono troppo della vita per essere anche delle persone per bene. Tra le vecchie diapositive, sbiadite e mangiate dall'umidità, ho ritrovato le immagini di noi, quell'anno, in quella casa al mare, con il tetto in lamiera. Nella foto c'è mia madre, con i capelli biondi e leggermente accottonati, con quello sguardo che aveva sempre, da Madonna triste con gli occhi d'acqua. Accanto a lei mia zia, con una scopa in mano, che guarda con sorpresa. I suoi riccioli neri sono spettinati e la bocca semiaperta in un ghigno, come stesse provando a dire qualcosa. Io guardo fisso l'obiettivo. Sono piccola e panciuta. Ho 3 anni. Ho sempre sognato di vivere al mare, non dover pensare a come vestirmi perché tanto fa sempre caldo. Magari camminare scalza dimenticando le ciabatte sulla spiaggia ogni volta. Ho seguito le regole che la società mi ha imposto. Studiare per avere un pezzo di carta in mano che dice che sono laureata. Cercare lavoro, cercare casa, cercare un marito per tutta la vita. Ma con il passare degli anni e compiendo i piccoli successi che il sistema mi imponeva, ho capito che questo gioco non mi piace. Possedevo una casa, un'auto sicura e spaziosa. Abbastanza soldi per andare al supermercato e non pensare a quanto spendere, ma solo a comprare. Un lavoro sicuro, il rispetto della famiglia, degli amici e anche dei vicini di casa. Un quasi marito che pensavo di amare, ma che era solo lo specchio delle catene che ancora non avevo sentito tintinnare, fino a quando non ho deciso di muovermi. Che poi i ricordi di quegli anni sono offuscati dal senso di colpa. Appaiono le immagini del tempo del mio fidanzamento. Ero giovane, con quella faccia da Madonna innocente che ho preso da mia madre, alcuni chili di troppo che raccontano l'abbondanza del tempo, e potevo fare qualsiasi cosa. Eppure ho tessuto le mie catene per anni, accettando il gioco del ricatto nelle relazioni umane, accettando i compromessi che nascono in una relazione di coppia, con l'idea fissa nella mente che io lo avrei potuto salvare, quell'uomo, l'uomo della mia vita. Resistere ai colpi della fortuna, alle regole che ci impone il bon ton, all'immagine che dobbiamo dare di noi come donne. Resistere ai primi litigi per gelosia. Resistere ai primi urli di quando la nostra dolce metà ci dice che siamo delle persone inutili, che non sappiamo fare nulla e che soprattutto è colpa nostra se lui ha rotto il vetro della porta di casa. E che dobbiamo essergli grate, perché la violenza non la rivolge contro di noi. E poi si è fatto anche male alla mano, poverino. Resistere. Vittime volontarie di un abuso psicologico domestico e nascosto, perché la gente non lo deve sapere, sennò poi chissà che cosa dicono. Ecco come ho tessuto una ampia rete di catene nel corso degli anni, senza rendermene conto, senza ascoltare i consigli degli amici che vedevano tutto, ma che io non sentivo. La gioventù se n'è andata nella nebbia di una vita fatta di lacrime nascoste, bugie a me stessa e al mondo intero, fingendo che andava tutto bene. Anni oscuri, nei quali una voce, la piccola coscienza di Morgana, ha continuato a parlare, dicendomi che non era colpa mia e che la fiammella era ancora accesa. E poi, un giorno d'estate, con la luna piena che faceva brillare le montagne meravigliose tutto attorno, e non è stato il vetro della porta di casa, ma la mia faccia a rompersi. Ho visto le stelle, come nei fumetti, quando ricevono un pugno sul naso. Ho capito che quello sarebbe stato il trattamento che avrei ricevuto da quel giorno e fino a che morte non ci separi. Ho deciso che avevo passato già troppo tempo come vittima volontaria in una relazione tossica. Ho guardato il mio diavolo negli occhi e gli ho detto che non mi faceva più paura. Gli ho fatto le valigie, nonostante tutte le sue preghiere e i suoi giuramenti sul fatto che sarebbe cambiato e che non succederà mai più. Poi ho messo le mie cose in uno zaino e sono partita, con la benedizione della mia finalmente ritrovata famiglia. C'è una fotografia di quel momento, pronta per il mio primo giorno di scuola, pronta per il mio primo passo dei 1000 che ho compiuto fino ad ora. Lo zaino mi pesava dei sogni che ancora non avevo compiuto e della paura che avevo ancora della vita. Il tutto mescolato con quel senso di colpa di non essere andata a conoscere il mondo prima, quando avevo la faccia paffuta e quella bellezza che si chiama giovinezza. Oggi è il mio compleanno. Mi sveglio troppo presto che i galli hanno appena cominciato a cantare e a rispondersi che va tutto bene. Mi metto a scrivere nella penombra dell'alba umida, con la necessità di condividere con il resto del mondo queste immagini sparse nel cervello e che hanno la forma di fotografie sbiadite dal tempo. Ho affittato una casa per qualche mese, proprio qui sotto al campanile della chiesa. Dalla camera asettica di quell'hotel senza memoria a questo giardino che mi sembra incantato. La cabagna ha il tetto di lamiera e le pareti in bambù. Due grandi letti, una cucina non finita dove manca l'acqua, una grande finestra con zanzariera dalla quale vedo il mondo che respira. Ci sono gatti, galline e galli dei vicini. Una grande iguana nera alla quale piace rubare i frutti della papaya. E alcuni colibrì che passano proprio davanti a me, fermandosi a succhiare il nettare dai grandi fiori rossi. I vicini sembrano persone amabili. Una donna con un figlio di 2 o 3 anni nella casa di fronte e una coppia silenziosa che vive qui accanto. Mi rendo conto, giorno dopo giorno, che questa è una comunità dove le famiglie vivono ancora secondo il ritmo delle stagioni. Le stesse stagioni che poi muovono i pescatori, i ristoranti, gli artigiani vestiti da hippie con i loro tamburi, i negozi, le onde di turisti ignari e le spiagge. Quello che rimane sempre costante è il respiro del mare. Lo posso sentire, dalla mia nuova casa, l'oceano che rimbomba. Io mi stavo preparando. No, va. Quando poi metto i piedi in acqua, si sciolgono anche le paure e l'oceano mi abbraccia. Si sciolgono le lacrime che ho versato negli anni oscuri del mio medioevo volontario e mi perdono.